Allora senti, come questa pietra. Vedo la testa del Monte Sacro risplendere nella luce. L'uomo non è soltanto quello che è. Non c'è verso. Il suono della poesia. È anche quello che vorrebbe essere. Tu dammi l'orecchio. Dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, benvenuti a Non c'è verso, uno spazio in cui ci occupiamo di poesia detta esclusivamente da chi l'ha fatta. Cioè non è sui testi quindi che ci fisseremo, ma ci interessa l'ascolto delle voci dei poeti e per farlo seguiremo un grossolano filo cronologico. E cominciamo quindi andando indietro, indietro, indietro a quando qua un tempo era tutta poesia. Cioè se andiamo indietro fino a prima della scrittura tutto era orale. Le informazioni, le storie venivano raccontate da qualcuno a voce e tutti ascoltavano. E dire le cose che devono essere ricordate sia per chi le dice che per chi le ascolta in poesia viene meglio, perché la metrica, le rime, le allitterazioni, che poi sono la struttura ossea della poesia, aiutano a ricordare. Io mi ricordo ancora i giorni dei mesi grazie a 30 di conta settembre con aprile, giugno e novembre, quindi funziona. Ma situazioni di oralità comunitaria e collettiva come quelle che ci possiamo immaginare, con qualcuno in piedi che narra una storia davanti a un pubblico attento, rapito, che ascolta, possiamo in realtà incontrarle pure oggi e lo dobbiamo ai poeti improvvisatori. A questo modo di fare la poesia estemporanea probabilmente esiste da sempre e dappertutto, perché basta che ci sia una comunità. E oggi possiamo sentirla ancora in alcune parti di mondo, tipo in Sud America, in Nord Africa, in alcune zone dell'Asia, nei Paesi Baschi, in Corsica e pure in Italia. In Italia, per esempio, è molto viva nella zona del centro, tra Lazio, Abruzzo, Toscana, e pure in una regione dove è particolarmente multiforme e variegata, in Sardegna. Ma cos'è in concreto la poesia improvvisata? E allora, si tratta di improvvisare un componimento poetico con delle regole metriche precise su un tema che solitamente viene assegnato in quel momento dal pubblico. E adesso ci andiamo ad ascoltare alcune cose registrate dalle parti nostre. Iniziamo nella zona del centro Italia. Le origini di questo tipo di poesia sono pastorali, nel vero senso della parola, cioè il pastore andava al pascolo portandosi dei poemi cavallereschi per passare il tempo, per leggerli, come l'Orlando Furioso, la Gerusalemme liberata, e appunto, tipo fosse la settimana enigmistica, si allenava per passare il tempo a comporre rime e nel frattempo leggeva queste tematiche cavalleresche, epiche. Quando poi la sera tornava in paese, bevendo con gli amici, improvvisava dei versi in stile cavalleresco. E da quel genere di letture, da quei poemi, viene anche la metrica che si usa per queste improvvisazioni. La poesia di quella zona è infatti conosciuta anche con il nome di ottava rima, perché i versi devono essere otto, devono essere endecasillabe e devono rimare tra loro a versi alterni i primi sei e invece a rime baciate gli ultimi due. È la stessa metrica appunto dell'Orlando Furioso. Adesso, per capire concretamente di che stiamo parlando, di che si tratta, ci ascoltiamo una registrazione che ho fatto qualche mese fa in un bar di Piazza Ragusa. È il momento di apertura della serata, quando i poeti a turno, come prima cosa, come buona educazione, salutano. Quindi c'è un momento di passaggio e uno dopo l'altro si presentano, salutano e iniziano ad aprire la serata. Ascolteremo nell'ordine i poeti improvvisatori Ezio Bruni, Giampiero Giamocante, Pietro De Acutis e Donato De Acutis. Chi me l'avesse detto a tempo indietro che 8 giorni prima di Natale venisse a improvvisare insieme a Pietro, se nonostante la schiena mi fa male. perché le ossa mie sono come il vero. E la vecchiaia quindi l'è normale. Però ora il dolore si è calmato con Pietro Borghi. Con Pietro, con Giampiero e con Donato. Io mi alzo, scusate. Si rinnova quel canto improvvisato, ritorna l'alchimia al caffè Ragusa, e allora grazie a loro che ci hanno invitato e che vogliono stimolare questa musa. Ezio allora l'abbiamo qui invitato. Lui non li fa i versi alla rinfusa, lui ce l'ha poetica la vena, da tutti è conosciuto quel di Artena. E il ricordo di Roma si rinsena. Laggiù nel centro la vecchia osteria che in certe notti appariva piena. Questo è il ricordo della testa mia. Ora diversa è venuta la scena. Qualunque il modo di riunirsi sia, va bene perché non tutto si è perso, che a Roma è ancora un angolo diverso. Piove da giorni e il cielo non è terzo, però d'uscire ne vale la pena, perché il canto riempie l'universo e oggi ci venne Ezio anche da Artena. Iniziando così per tempo perso, credo venire ne valga la pena. Con l'occasione ci facciamo intanto gli auguri del Natale con il canto. E ecco qua, ci siamo presentati. E adesso vediamo però come prosegue la serata, come si evolve, come continua dopo i saluti. Allora, nelle improvvisazioni il poeta può o cantare a tema libero improvvisando versi su una cosa che vuole dire lui, oppure partono delle sfide, dette contrasti, tra due o più poeti, dove a ciascun poeta viene assegnato, come abbiamo già detto prima, un ruolo dal pubblico che lui dovrà interpretare in contrapposizione, spesso pure in opposizione, al tema di un altro. Quindi a turno si raccontano, presentano le proprie doti, si prendono in giro, in maniera poi il più possibile vivace, originale e poetica. Adesso, con questo poco che sappiamo e con l'ignoranza e la timidezza che ci contraddistingue, abbiamo fatto qualche domanda a un poeta improvvisatore, un poeta a braccio, come anche si dice. E per sapere qualcosa di più sulla scena e il retroscena dell'Ottava Riva, sentiamo che ci dice Giampiero Giamogante, poeta a braccio. E abbiamo finalmente la possibilità di intervistare un poeta a braccio di persona. Intanto volevo chiederti come è iniziato. Per me è iniziata come passione, provenendo da una zona in cui la poesia estemporanea è ancora molto diffusa e molto praticata. Siamo in provincia di Rieti, il paese da cui provengo è Città Reale. Mm-hmm. In tutta quell'area fra Amatrice, Monte Reale, Lonessa, ancora la poesia a braccio è molto praticata. E in che contesti veniva fatto? Allora, prima il contesto che io ricordo ancora, anche se era in fase calante, era quella delle osterie. Mm-hmm. C'erano molte osterie, c'erano molti posti di ritrovo in cui dopo una sacrosanta bevuta, incontrandosi alla fine della giornata si iniziava a cantare. Io ancora però ero bambino, parliamo della fine degli anni, metà degli anni 80, diciamo. I poeti si alzavano e cominciavano... Ma neanche senza alzarsi. C'erano tanti posti piccoli, bettole, osterie, in cui si cantava abbastanza frequentemente. E anche lì funzionava che il tema veniva assegnato da chi ascoltava? Beh, lì era più un canto libero, più un canto che poi prendeva una direzione a seconda di quello che si diceva. Argomenti classici come l'amore, l'amicizia. Il pubblico che ascoltava era le poche persone che stavano intorno, ma non è che davano indicazioni, ascoltavano o magari intervenivano. La parte come la conosciamo adesso, di un pubblico che dà dei temi, esisteva anche allora, ma era propriamente delle serate dedicate all'improvvisazione. Oggi purtroppo ci sono meno occasioni spontanee e quindi la maggior parte delle serate si fanno organizzate e quindi c'è un pubblico e quindi c'è chi ti propone dei temi. Il fatto di prendere le parti di qualcuno o qualcosa è anche di per sé un'attività inventiva, quasi attoriale, perché a te viene dato un ruolo e ti devi un attimo immedesimare in quello che andrai a performare. Ah sì, anche se non sei d'accordo, ti sarà capitato di avere delle assolutamente, cose... Assolutamente, sì, si deve sposare assolutamente il ruolo che ti viene assegnato, il ruolo, l'argomento, la situazione. C'è una che ti ricordi particolarmente fastidiosa che ti è stata assegnata? Ma particolarmente fastidiosa no, quelle un po' più particolari sono pure le più stimolanti. Per assurdo le cose più stimolanti vengono da persone che non hanno mai sentito l'improvvisazione. Ultimamente per esempio ci hanno chiesto di cantare su il Principe Carlo e William, cioè queste cose magari che possono sembrare banali ma so dell'attualità. Da quanto ho visto io quando mi è capitato di assistere c'è comunque un'atmosfera super rilassata tra voi poeti. E quindi mi chiedo, c'è anche una sorta di attenzione gentile nei confronti l'un dell'altro? Insomma, per intenderci, ci sono cose che è un po' da carogne fare, mentre invece altre che vanno appunto evitate apposta per non mettere in difficoltà. E il poeta che crea un'ottava non la fa per mettere in difficoltà l'antagonista, ma la fa per mettere in evidenza e far primeggiare il proprio ruolo. Oh, e quindi, mi piace un sacco. E quindi il proprio modo di cantare. Quindi il proprio brillare non dipende dallo schiacciamento dell'altro, ma dalle proprie personali capacità. Sì, anzi, se il poeta che contrasta è un bravo poeta, anche l'altro tende a alzare il suo livello di poesia, di improvvisazione. Se si canta con poeti più bravi, anche tu diventi più bravo. Si alza il livello delle rime, si alza il livello dell'inventiva. Come serve a migliorare se stessi le regole dell'ottava, l'endecasillabo, gli otto versi, l'obbligo della ripresa? Non sembra. Le regole non uccidono la creatività, anzi la sviluppano, la migliorano. Quando stai in taverna e appunto il poeta comincia a cantare, cioè si crea un contrasto così, poi finisce che basta, tu hai esposto le tue ragioni, io ho esposto le mie, ma non è che qualcuno ha avuto ragione su un altro, ha vinto. Cioè, non c'è la proclamazione di chi ha vinto, ma se sa chi ha vinto. Se sa? Se sa da chi ha cantato meglio. Se sa da come uno ha risposto. In realtà una domanda mi premeva farla, un po' scadendo nel torbido, nel senso, è mai finita male nel contrasto? Allora, io ho assistito una volta a qualcosa che veniva da una lite precedente. Due poeti a braccio che hanno avuto un dissapore, l'hanno risolto, o meglio, non l'hanno risolto cantando. Eravamo alla fine di una serata, questi due poeti in realtà non cantavano, nessuno dei due. Uno perché organizzava e uno perché non era stato invitato. Alla fine della serata qualcuno ha spinto questi due poeti sul palco e diciamo che la cosa è andata benissimo per chi ascoltava. Certo, deve essere stato uno spettacolo perché pazzesco. È stata la serata, ognuno ha ribadito le proprie ragioni, poi il dissapore c'era stato per il canto, quindi... Super sentita, molto accesa e quindi è stata proprio un esempio bello, interessante. Poi si sono riappacificati, non quella sera. Ok. Non quella sera, quella sera è finita a scintille. Non stavano facendo finta, no, ecco. No, non stavano facendo finta. Un altro esempio molto interessante, la diatriba che c'è stata fra due poeti che purtroppo non ci sono più, uno più anziano e uno più giovane, in cui l'anziano accusava il giovane di non avergli dato l'importanza che meritava in una serata poetica. La cosa particolare qual è? è che la lite, fra virgolette, è iniziata in ottava e poi è proseguita scritta. Ma in che modo si scrivono? Epistolare, scambiano delle lettere. Lettere di carta? Di carta. Quindi parliamo già di anni addietro? Parliamo degli anni 70-80. Ma che bellezza! E queste cose sono state pubblicate. Era rimasta qua, sì, sì, sì. Sì. E alla fine? Mi ricordo, io l'ho letto queste cose, questo scambio epistolare l'ho letto. Alla fine il giovane chiude un'ottava che a me mi è rimasta in mente, dicendo: perché tu difendevi quel tuo mito che in fondo non è mai esistito. Quindi insomma è una cosa particolare, perché queste lettere ci sono, insomma. Qual è l'asso nella manica di un poeta che improvvisa? Cioè, avete degli espedienti per aiutarvi? Per esempio mi viene in mente la rima, no? Che già di per sé è un aiuto, perché sì, pensare a una rima già ti chiama il verso precedente. Sì, ci sono dei vocaboli che sono propri di ognuno. Ognuno ha il proprio vocabolario e che di conseguenza quel vocabolario regola il tuo modo di cantare. Quando ti danno il tema, che succede nella capoccia tua? Allora, quando ci danno il contrasto, il tema, succede che arrivano una serie di vocaboli che io poi cerco di riordinare. E il bello è quello, è riordinare le idee, riordinare le parole e dargli un senso. Infatti normalmente quando si cominciano le serate si cominciano facendo delle ottave di saluto. Le ottave di saluto certamente servono per ringraziare chi ti ha invitato, ma ti servono pure per riprendere la musicalità, è un riscaldamento, esatto. Ma il fatto di essere visto, io batto su questo tasto perché sono pure una timida, quindi in realtà immaginarmi in un contesto come il vostro per me è una tortura. Quindi il fatto di essere visto dal pubblico mentre tu stai pensando, cioè quanto conta la presenza di altre persone? Tu è fondamentale. Io so di poeti improvvisatori bravissimi che non canteranno mai su un palco. Tanti non concepiscono il palco perché è un modo ultimo di cantare, diciamo. È una cosa che si fa da non tantissimi decenni, diciamo, che sono legati ancora all'ottava che nasce a tavolino e basta. Senti, il discorso che facevi del palco mi interessa anche perché il tipo di poesia a braccia improvvisata mi sembra che ha un senso di comunità comunque alle spalle molto forte. Sì. Quindi è una situazione orizzontale, sembrerebbe, super orizzontale. Assolutamente super orizzontale, sì. Il poeta è parte della comunità con la quale, per la quale e nella quale canta. Assolutamente sì. Ah no, questa è questa sì, sì, sì. Il poeta che canta interpreta quello che la persona vuole sentire. Quindi il filo diretto, il rapporto rimane sempre vivo. Il rapporto diretto, vivo e attivo è con quelle persone che c'hai di fronte, assolutamente. Ecco perché nelle osterie il vociare intorno era una cosa normale. Ecco perché il contrasto deve essere dato da chi ascolta. A noi ci unisce un po' il provenire dalla stessa zona. Ai baschi e ai corsi, oltre la zona, li accomuna il dover mantenere viva una lingua, che a me è una cosa che mi ha proprio esaltato. Ci sono giovani che vogliono farla e la fanno? Sì, ci sono giovani che vogliono farla e la fanno, soprattutto in Toscana. Al giorno d'oggi dove è possibile vedere un contrasto di poesia a braccio? Siete un po' come il Fight Club, che parlano, ma... forse non si parla del Fight Club, non mi ricordo mai una cosa, però... Oddio, noi ancora siamo abbastanza attivi, nel senso che non è difficile ascoltare un'ottava improvvisata. L'esperienza del Barracusa, insomma, l'hai vissuto anche tu. Niente, le occasioni un po' si creano. A febbraio fanno sempre un incontro a Pianizzoli in Toscana, poi inizieranno con la base della stagione tutte le occasioni diciamo fisse. La prima che mi viene in mente è quella di Ribolla, sempre in Toscana, ad aprile. Poi durante l'estate c'è quella di Bagugno, ci sarà quella di, insomma, le occasioni ci sono, insomma. Bisogna andare a cercare effettivamente. Quindi la poesia a braccio è viva e lotta insieme a noi, cioè sta cambiando. Sta mutando. Ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dato e per le risposte anche che ci hai dato. Grazie a te. Grazie a te. A prestissimo. A presto. Oh, torniamo tra noi pochi intimi, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Siamo a Non c'è verso e stiamo parlando di poesia improvvisata. Allora, adesso che abbiamo già detto tante cose al riguardo, andiamo al sodo. Ci sentiamo un contrasto tra poeti, anche questo registrato a Piazza Ragusa e condotto e presentato da Daniela Dottavi. Ecco quindi com'è proseguita la serata dopo i saluti iniziali. La cosa che più fa piacere a tante persone è che i poeti si sfidano. Si sfidano su due temi contrapposti. Fanno proprio una competizione. I due temi in contrasto che vengono dati, come dicevamo prima, dal pubblico. Ora, io un tema già ce l'ho perché me l'ha dato Sara. Però qui c'è questo foglietto con tanto di penna che adesso passerà e voi pensate a un tema da dare ai poeti e pensate anche a quali poeti lo vogliono svolgere. Intanto vi dico il primo, che è quello di Sara. Il tramezzino e la porchetta. Siete pronti? Sara, a te, chi lo fa e chi inizia? Ezio fa il tramezzino e Donato la porchetta. E chi inizia? Comincia la porchetta. La porchetta, quindi io faccio. Donato fa la porchetta e inizia e Ezio fa il tramezzino e risponde a Donato. E io intanto faccio girare questo. È assai famosa quella dei castelli. Si mangia in festa, si mangia in famiglia. Ricorda sempre dei momenti belli, ma ora siamo al tempo di vigilia. Quando che si riaccendono i fornelli, la fiamma sotto al porco arde e piglia. È veramente una bella passione, per il viandante è proprio un buon boccone. Come si sente che lo sei il padrone? Sembra che l'hai fatta giusta scuola, sembra che tu appartieni a quel cantore o la tua moglie sia una ricciarola. Comunque qui sta bene, tutto è benone, per me la prima volta è questa sola. Il tramezzino poi con qualche scusa, intanto iniziamo qui a Ragusa. Quando la fame non è ancora conclusa, il tramezzino può anche andare bene. Chi della fame proprio troppo abusa, lo mangia e del sollievo certo tiene. Ma quando c'hai la fame alla rinfusa, ci vuol la carne che il corpo sostiene. Dal porchettaro poi ci vado apposta, un po' di carne insieme un po' di crosta. E però tu ci vai apposta, perché quella porchetta a te ti piace, però il mio panino e con la crosta vedrai che troverai le cose vane, perché solo porchetta quando costa, prima che poi la fame non rimane. Invece la porchetta e poi un pochino è meglio se ci associ il tramezzino. La porchetta lo sai, non è uno spuntino, lo soddisfa davvero qualche palato, in proporzione credo il tramezzino abbia un costo, lo sai, molto più salato. Fa parte a un altro mondo, un altro destino, il tramezzin lo mangia l'impiegato. La porchetta invece è l'altra lista, lo mangia l'operaio e il camionista. Lo può mangiare chiunque in ogni pista, pure se trova posto uno stradello. Lo mangio pure io a prima vista, che sono avvezzo assai dell'orticello. Ma di porchetta non seguo la pista, c'ho il broccoletto io che è tanto bello. Con quel panino vedi che è un mio, a me che quello mi riassume e leva la fame. La porchetta è regime, è regina di un reame, dove il cibo è più chiaro e trasparente. Con l'occhio solo ti levi la fame, che perché di caloria molto è potente. Il tramezzino nella vista infame, davanti è pieno e dietro non c'è niente. Allora benedico la ricetta che mi fa rimangiare tanta porchetta. Tu puoi cantar così, aspetta e aspetta, ma porti la porchetta ti fa male. A parte quel che costa e la ricetta, ma non è poi quel cibo normale. Se invece, invece vieni nella mia casetta, li trovi tutta roba naturale. Quella porchetta tua è una carcassa, e poi sta attento che tanto ti ingrassa. Quindi qui per sbrogliare la matassa, e difficilmente poi di queste cose sicuro l'uno e l'altro insieme ingrassa. Però sta attento a quel che ti proposi. Nella porchetta ci vedo la massa. Io non ci vado poi come ci fosse. Va bene la porchetta e il tramezzino accompagnate da un bicchiere di vino. Che alla fine hanno fatto un bacio per uno. È il modo per capire che l'ottava sta finendo, il contrasto sta finendo. E si guardano e in qualche modo si capiscono che siamo arrivati e che quindi fanno un bacio per uno per chiudere l'ottava. E dopo questa full immersion nell'ottava rima, continuiamo a ravanare nel mondo della poesia a braccio. Sempre qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, a Non c'è verso, oggi ci stiamo interessando della poesia improvvisata e ora ci spostiamo in Sardegna, dove le cose si fanno più complesse. I sardi non se la fanno facile per niente, le difficoltà tecniche aumentano tantissimo e anche le caratteristiche del canto cambiano da zona a zona. Si può fare una distinzione all'incirca di quattro stili principali, quindi partiamo dal nord fino ad arrivare giù. A nord troviamo le ottaddas, che sono le più simili all'ottava rima che abbiamo sentito fino adesso, però c'è un'aggiunta in più che troviamo soltanto in Sardegna, cioè la presenza dei tenores. È un gruppo corale che interviene solitamente a fine verso, con un accordo che serve sia davvero ad accordare il cantante, a fargli mantenere il tono in qualche modo, ma comunque spezza creando un'atmosfera di tensione grave. È un tocco che dà un colore davvero unico alla esibizione. E ci andiamo a sentire un esempio con una registrazione del 1993 fatta a San Gavino. Che sto mondo è sanato sabbia da sua vezzo. Voi andate a pagare una cara, dove sempre va tu sosa attrezzo. Che bella figura sa presenzia, e poi male nara sa si scienzia. Mie e procosi scienzia l'esclude, sia pro malattia o pro salute, cosa del suo natura pati mie. Tu e vischere lotto in gioventù, con ogni vita fissa le sutie. Solo mi servo entrato in sai attesa, sal fritta a spendere a sassese mesa. Questa era l'Ottaddas. Poi ci spostiamo nella parte occidentale, la parte ovest, e troviamo la Repentina. I versi sono settenari, c'è un alto numero anche di versi, ma c'è una caratteristica particolare. Il verso si spezza e le rime sono concatenate sia a fine verso che a metà verso. Questa prima era una caratteristica di tutta la poesia sarda, ma adesso è rimasta solamente qui nella Repentina e a sud. Ci sentiamo un esempio registrato nel 2005 ed eseguito da Remo Orru. Quando mi voglia cantai, quando mi voglia cantai, contente su coro mio, mancai a pago cultura. Quando mi voglia cantai ad ogni agriatura e a tutti gli schibiu o io l'usa l'udai. Contente su coro mio, oi io l'usa l'udai, ad ogni agriatura e a tutti gli schibiu. Mancai a pago cultura a tutti gli schibiu, oi io l'usa l'udai ad ogni agriatura. Grazie. Questa era la Repentina. Adesso andiamo al centro della Sardegna e là troviamo i Muttos, dove arriva un nuovo elemento che ritroveremo anche questo pure a sud, che è una caratteristica particolare, divide due momenti semantici diversi, cioè c'è una parte in cui il poeta risponde al tema dato, una parte invece dove il poeta a tema libero comincia un discorso tutto suo, un discorso personale, un argomento di vario genere, possono essere immagini poetiche, citazioni, improvvisa contemporaneamente su due temi paralleli e separati. Andiamoci a sentire un esempio. Ascoltiamo una registrazione del 1990 e l'interpretazione è di Migheddu Cuccu. De gustoseo seguro verità cade già in sepoltura e musica serenata. Musica serenata e attento mano a susto, ecco su te vertimento. Questo era il Muttos e adesso finalmente ce l'abbiamo quasi fatta, arriviamo al sud, dove già prima abbiamo detto questo lo troviamo pure al sud, questo lo troviamo pure al sud, e qui troviamo il Muttettus, che ha le caratteristiche dei due precedenti, cioè può avere il verso spezzato concatenato con la rima a metà e a fine verso, può avere due gruppi di senso diversi, cioè io improvviso sul tema principale e su quello che mi pare a me. Inoltre ha una caratteristica secondo me pazzesca, cioè il tema viene lanciato all'inizio da uno dei poeti e viene lanciato però in forma metaforica. Quindi gli altri poeti che improvvisano dopo non sanno neanche bene su che cosa stanno improvvisando. Cioè cercano di indovinare il tema principale qual è. Ah, e poi ci sono i tenores, che però si chiamano contra da queste parti. E quindi comunque questo accordo grave e profondo anche qui viene fatto. Adesso ci ascoltiamo subito un esempio. E da una registrazione del 1988 fatta a Quarto Sant'Elena ascoltiamo l'esecuzione di Pieru Lussu De Paoli. Spero che non nasca batti pecco te un vestimo un saggia espressioni non testa in sarto idioma porrendo onore a gustarvi pura gattiano se su mio in quarto città Parigi, buona missione d'importanza storica. A me andata fino a Parigi, a me andata fino a Parigi, buona missione storica importanza. Partiu de Roma e qui in Parigi, a Boiano su de lontananza. Benissimo, benissimo. Dopo aver sfoggiato i gioielli di casa nostra, andiamo a vedere che si dice in versi cantati fuori dall'Italia. E ci fiondiamo d'occhi chiusi a gambe levate nei Paesi Baschi dove succede qualcosa di favoloso. Il berzolarismo, la poesia improvvisata basca, è più viva che mai e splende di luce propria. Le caratteristiche di base sono quelle della poesia a braccio come l'abbiamo conosciuta fino adesso, quindi c'è il rispetto della metrica, l'uso delle rime, il tema libero, il contrasto. Però la cosa che rende il berzolarismo Unico e senza uguali al mondo è la partecipazione. Gli eventi di poesia sono frequenti, sono super frequentati. Ogni 4 anni si disputa un campionato che è il punto d'arrivo di anni di selezione. 14.000 persone assistono per un giorno intero, dalla mattina alla sera, alle prove, alle sfide dei poeti. È qualcosa proprio di epico in sé. Se avete voglia, cercate le immagini, perché in rete si trovano facilmente. La partecipazione che si vede, la presenza del pubblico, la presenza di spirito, la presenza a se stessi dei poeti, sono emozionanti da vedere. C'è l'arena piena, senza pubblicità, senza striscioni, senza scritte, solo persone attente, intenzione emotiva ad ascoltare i poeti che cantano, mani dietro la schiena oppure in tasca, non si sa bene perché, ma gli improvvisatori baschi hanno questa postura che apparentemente disinvolta, cantano davanti a questa valanga di gente. E se già la poesia a braccio tutta, così come già fino adesso la conosciamo, ha un andamento orizzontale, cioè il poeta è parte della comunità, si rivolge alla comunità, quello che improvvisa lo fa per i presenti, nasce e muore lì. Però questa cosa da quelle parti è ancora più sentita e viva, cioè si vede che è preziosa, che è una cosa seria. Ci sono anche delle scuole, ne hanno più di 100, dove fare pratica e dove si impara a improvvisare. L'età dei poeti è molto più mista della nostra, quindi ci sono poeti giovanissimi che sfidano poeti anziani e le tematiche sono anche attuali. In più i poeti possono cantare con la melodia che preferiscono, scegliendo sia roba popolare se vogliono appoggiarsi ai classici, sia cose più moderne. L'importante è che abbia le caratteristiche utili, cioè che la metrica si possa sposare bene, si appoggi bene sulla melodia. E allora adesso andiamo a sentirci qualcosa. Preannuncio che tutti i brani selezionati sono della mitica Mayalen Lucambio, che è la vincitrice in carica per la terza volta consecutiva del campionato, a cui io dedico quest'ultima parte della puntata, anzi tutta la puntata intera. Allora, la prima registrazione è una delle prove che i poeti hanno affrontato nel campionato del 2017 ed è una prova singola, quindi non si sfida con nessuno, divisa in 3 momenti narrativi. Io l'avevo scelta perché avevo trovato anche i sottotitoli in castigliano e quindi volevo fare una specie di traduzione, insomma, volevo trovare il modo per metterci anche la traduzione. Però poi ho pensato, visto che comunque non mi veniva benissimo, che anche i sardi non è che li abbiamo poi capiti nel dettaglio e quindi ci affidiamo al suono, ci fidiamo del senso che solo l'ascolto ignorante dà. Ho anche mantenuto i momenti di silenzio dove la poeta pensa a che cosa dire, perché secondo me sono parte dello spettacolo, cioè sono pieni di tensione, sono carichi di roba, si sente quasi il del pensiero che qualcosa sta nascendo. Il tema su cui improvviserà la Lucambio è: tutto andava bene finché non si accese la luce. La melodia è a piacere e lei ci fa una bellissima improvvisazione sul genere, sul corpo e sull'amore. Dopo che la presentatrice dice il tema sul quale improvviserà, nel momento in cui lei sta ragionando su cosa dire, si sentono le voci dei commentatori, quasi fosse un incontro sportivo, no? Tipo una gara di pattinaggio, che commentano temporeggiando per occupare il silenzio. Ascoltiamoci Mayalen Lucambio. Honakoa da gaurko kartzelako gaia Maialen. Dena ondo zijoan, argia piztu den arte. Dena ondo zijoan, argia piztu den arte. Hiru bertzo, nahi duzun neurri eta doinuan. Maialen Lucambio, zukasti duzu iruditan 40 urteko... Hernaniarra, Leicester, 41 egingo dituena. Eta aurkezpeni behar ez duen arren, gogora du 2009. Urtean Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusiko txapelduna izan zela. Eta ondorioz historiako lehen emakume txapelduna. Sei aldiz izan da Euskal Herriko txapelketetan finalista, 2001 eta 2013 txapeldun orde, eta herri artekoetan ere badu txapel bat, 2003 urtean, Gipuzkoakoa, hain justu ere, eta Patua Galana izan du, hemen txibertan Irungo Artaleku kiroldegian irabazitakoa. Bai, orain gontan frontisean dago holtza, orduko hartan kontrakantxan, eta, bueno, esan beharrik ez dago zedo hain dauzkan Maialenek, esango nuke pentsamenduaren sakontasuna dela bere izgarrietako bat, bere kasuan, bertsolari bikaina bakarrik ez, gaur egun Euskal Herrian dagoen pentsalari handietako bat ere bera dela esango nuke, eta gainera hori bertxotara ekartzen dakiena, baina orain eta hemen egin behar du berak ere. Trago bat eta beste trago bat, gure kaletan barrena, tapiztea da alkolak eta sexu grinak dakarrena. Zure etxera, nere etxera, betiko gauzak aurrena. Zure logelan sartu gerata, ara hemen ondorena. Argia zegon itzalitata, bertan biluztu naiz dena, taba batean piztu eginda, argi txiki xumena. Nere gerrira begira zaude, ez naiz uste zenuena. Nere gerrira begira zaude, ez naiz uste zenuena. Estali arte izan dugunak, nahiko irri, nahiko broma, ahorika opasa dugunak, gintonik barruko orma. Bular parea zut neukaneta, zuke mandida zu forma, galtza estuak nebilzkin arren, ez takoi eta ez gona. Auta ura naiz, hartzen ari naiz, zenbait botika hormona. Gizona eta Andrea nauzu, ez Andrea, ez gizona. Nere inonez egon naia ote da zure ezin egona. Nere inonez egon naia ote da zure ezin egona. gizarte honen estereotipo, ta gizarte honen usten, trampan zuari zera erortzen, eta hori ez dizutuzten. Zuk badakizu nola zizelka, eta marraztu gaituzten. Ze importadu gaurari banaiz, zure aurrean biluzten. Eta Neroni ni neu naizena, hori bakarrik gorpuzten. Nere gerripe zintzilikako desirari da puzten. Itzalizazu argia eta utzi azalari ikusten. Itzalizazu argia eta utzi azalari ikusten. E chiudiamo questa puntata di Non c'è verso con un'altra esibizione della Lucambio, l'ultima che ascoltiamo stasera, che arriva dal campionato di quest'anno che l'ha vista, ricordiamolo ancora una volta, vincitrice per la terza volta consecutiva. Credo che sia il saluto finale, non sono riuscita a capirlo con certezza, ma insomma ci sta bene a chiusura. Ci salutiamo con le sue parole. Ringrazio prima però Giampiero Giamogante per la sua disponibilità e Francesco Capuzzi per la sua pazienza e consulenza per quel che riguarda la poesia in Sardegna. Un saluto a chi è rimasto ad ascoltare finora, con affetto particolare a chi è privato della propria libertà. Alla prossima, sempre su Radio Onda Rossa. Ciao. 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna Maialen Lujanbio Zugazpi. Herriak ta hizkuntzak zuten norantzari gai gehiago lotu zaio lengo ardatzari. Ta munduak hartu dun itxura latzari, aurre egiteko beraz laguna altzadi. Bultza ederen martxari, kontrapixu eginez eskuin balantzari. Txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari.